Radio 24 Reportage. Occupazioni e sgomberi. L'emergenza casa tra Roma e Torino. Di Teresa Trillò. La pulizia sopra, sgombrare. Adesso, quando c'è piove ieri, non sono l'acqua porta, non c'è niente, con sta dormendo. Adesso uscire la mattina, ancora la pulizia, come si fa in noi? Non parla. Tutto inizia a Roma, in via Curtatone, a due passi dalla stazione Termini. Ad agosto, nel pieno dell'estate, un palazzo della società Idea Fimit, occupato da 4 anni da diverse centinaia di etiopi ed eritrei, rifugiati politici o richiedenti asilo, viene sgomberato dalla polizia, dopo il via libera di questura e prefettura. Sconosciuto il numero esatto degli occupanti, che non hanno mai accettato un censimento. Secondo la società proprietaria dell'immobile, gli occupanti erano tra 700 e 1000 persone. Ogni anno Idea Fimit ha pagato utenze per 240.000 euro e tasse di proprietà per 575.000 euro. Al momento dello sgombero, 107 persone in condizioni di fragilità, ossia donne con bambini, disabili e malati, censiti dalla questura, accettano la soluzione alternativa proposta dal comune, trasferimento in residence. Gli altri occupanti rifiutano e chiedono una soluzione definitiva, una casa. Per 5 giorni, 400 persone, secondo la questura, stazionano nei giardini di Piazza Indipendenza, in attesa di una risposta, spalleggiate dai movimenti per la casa attivi nella capitale. All'alba del 5° giorno arriva anche lo sgombero dei giardini, concluso con scontri violenti tra polizia e rifugiati, culminati con l'uso di idranti contro le persone accampate nelle aiuole. Un'operazione che finisce sulle prime pagine dei giornali. La procura apre un'inchiesta sull'occupazione dello stabile e sulla gestione degli spazi nei 4 anni di uso abusivo. I migranti rispondono con una manifestazione contro gli sgomberi e per il diritto alla casa. Buongiorno, voi eravate a Piazza Indipendenza? Sì. Ed ora dove siete? Dormo in strada con cartone. Ma in strada dove? In quale? Tiburtina. Ma non vi hanno offerto un'alternativa, un'altra casa? Speriamo. Vorrei altro, non lo so. Non lo sa. Però lei era a Piazza Indipendenza. Sì. E quindi sono state offerte. Cinque giorni. Altre ieri tutti, come ha visto, con macchina, bimbori, con acqua, tutti con ur. Lascia verde, per favore. Quanti anni è stata lì? 4 anni. Lei è eritrea? Sì. Arrivato con il mare, deserto, a Libia. Ma non vi hanno detto di andare sulla Tiburtina o a Rieti? Non c'è spazio per dormire, non c'è spazio per questa andare alle stazioni di Tiburtina. Gli scontri a Roma si potevano evitare, dice il capo della polizia, Franco Gabrielli. 2 anni fa, ricorda in un intervento sulle pagine di Repubblica, da prefetto di Roma, insieme con il commissario straordinario Tronca, avevamo stabilito una roadmap per trovare soluzioni alle occupazioni abusive, ma non ho più avuto contezza di cosa sia accaduto di quel lavoro fatto con Tronca. Dopo lo sgombero dei giardini di Piazza Indipendenza, a Roma si cerca una soluzione per i migranti senza casa. 2 presidi, uno ai Fori Romani, poi sgomberato, l'altro a Piazza Santi Apostoli, ricordano l'emergenza casa. In città impazzano polemiche e rimpalli sulle modalità dello sgombero e sugli scontri. Sotto accusa il comune, grande assente. Ma la sindaca di Roma, la pentastellata Virginia Raggi, non ci sta e 1 giorno e mezzo dopo lo sgombero rompe il silenzio e difende l'operato del Campidoglio. Il comune di Roma, scrive, ha compiuto fino in fondo il proprio dovere, ha rispettato la legge e offerto un'alternativa alloggiativa a chi ne ha diritto. E punta l'indice contro la regione Lazio, che non avrebbe rispettato i compiti. La risposta del presidente della regione Nicola Zingaretti non si fa attendere. Da maggio, spiega, non c'è stata alcuna risposta dal Campidoglio sui 40 milioni stanziati dalla regione Lazio per l'emergenza abitativa nella capitale. Dopo il caso Roma, il Viminale ripensa le procedure degli sgomberi, da fare solo se c'è una casa o una struttura alternativa dove trasferire gli occupanti. Sull'emergenza abitativa nella capitale, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, incontra la sindaca Virginia Raggi e la prima cittadina si presenta all'appuntamento con una proposta. Messa a disposizione delle caserme, quelle che hanno peraltro gli alloggi di servizio e che quindi potrebbero essere riadattate e predisposte con più rapidità per abbassare le liste d'attesa. Ricordiamo che a Roma sono oltre 10.000 le persone che attendono una casa da oltre 10 anni e un'altra proposta a nostro avviso interessante è quella di riattivare il mercato immobiliare. A Roma abbiamo oltre 200.000 case tra sfitte e invendute, quindi rimettere in moto un settore immobiliare consentirebbe da un lato di abbattere anche qui le liste d'attesa e quindi di velocizzare un po' le procedure sulla dissoluzione per l'emergenza abitativa, dall'altro di riattivare un settore economico che comunque è in grave crisi da parecchi anni. Non solo Roma. Anche a Torino l'ex villaggio olimpico è occupato da circa 800 rifugiati. Chiara Appendino, sindaco pentastellato, da mesi lavora però allo sgombero con un progetto triennale portato avanti da comune, prefettura, regione, città metropolitana e diocesi, sotto la guida, anche economica, della Compagnia di San Paolo. L'obiettivo è liberare la struttura entro il 2020, racconta Sergio Durando, direttore dell'ufficio migranti della diocesi di Torino. Intanto 40 persone hanno già trovato un lavoro e entro novembre 150 persone saranno trasferite in alloggi messi a disposizione da comune e diocesi e strutture da selezionare con un bando comunale. Torino ha fatto una scelta in qualche modo di mettere insieme le maggiori istituzioni e cominciare a costruire un ragionamento sul da farsi. Le istituzioni coinvolte sono la città di Torino, la prefettura, la Compagnia di San Paolo, la diocesi di Torino, la regione Piemonte. Cioè questi sono i soggetti che hanno costituito un tavolo istituzionale a cui poi è stato fatto nascere un tavolo invece più operativo, un tavolo di management e poi un tavolo di partecipazione allargato ai cittadini, al territorio, a tutte le realtà che in qualche modo sono sensibili e interessate a dare un loro contributo e un apporto alla risoluzione di questa situazione che non passi attraverso uno sgombero forzato che rimette le persone sulla strada, che non le riporta all'autonomia e che quindi non risolve il problema. Quali sono le soluzioni alle quali state lavorando? Certamente parliamo di palazzine occupate, quindi c'è una prima attenzione in qualche modo a trovare sistemazioni abitative altre per le persone che stanno lì, ma sappiamo che non basta trovare una casa, occorre lavorare anche sul tema lavoro, ma il lavoro sappiamo che oggi il mondo del lavoro è anche esigente, richiede persone professionalmente preparate e allora si sta lavorando in diverse direzioni. Rafforzamento della lingua italiana per coloro che non parlano troppo italiano, formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro, inserimento abitativo. Queste sono un po' le direttrici su cui si sta lavorando. Ovviamente dobbiamo dire una cosa, percorsi di questo tipo non si realizzano dall'oggi al domani, è necessario, come dire, un tempo, sapendo che non si tratta solo di spostare delle persone, caricarle sul pullman e portarle da un'altra parte, ma si tratta di costruire un progetto non solo per le persone, ma con le persone. Risposte complesse non possono essere date da un soggetto solo, ma risposte a situazioni complesse si possono in qualche modo dare se davvero ci si mette insieme, cioè direi che questa è un po' la strategia. Il modello Torino piace al Viminale, che intanto ha riscritto le regole sugli sgomberi e ha inviato le direttive a tutti i prefetti del paese, chiare le linee guida. Innanzitutto mappare le case sfitte in Italia e mettere a punto un piano nazionale per il riuso a fini abitativi. E poi vigilanza per evitare nuove occupazioni, ma se si verificano, intervento immediato per scongiurare il consumo consolidamento di situazioni come quelle di Roma. Gli sgomberi, indica il Viminale, vanno fatti tutelando i soggetti che hanno diritto a un alloggio e le famiglie in condizioni di disagio. Le nuove direttive istituiscono anche una cabina di regia al Viminale con l'Associazione dei Comuni, la Conferenza delle Regioni e l'Agenzia dei Beni Confiscati alle Mafie per una verifica sui beni inutilizzati. Organismo chiave della nuova strategia del Ministero degli Interni sarà inoltre il Comitato Metropolitano, presieduto da sindaco e prefetto, che valuterà le singole situazioni e le criticità su immobili occupati e sugli occupanti. Spetterà poi ai prefetti pianificare gli sgomberi, verificando sempre che ci siano alternative abitative per chi ne ha diritto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.